Siamo a Tricarico, il 9 agosto 1967, siamo in casa della mamma di Rocco Scotellaro. Bella ciao, ha fatto il giro della penisola ed è arrivata in Locania con questa nuova storia. Quello che ci interessa a noi però è la mamma di Rocco, che ha in mano adesso il libro di suo figlio, L'uva puttanella e i contadini del sud. Mi vuol dire qualcosa? A A chi la deve noi, ai tutti i suoi amici. dire? Saluta tutti gli amici. Tanti ringraziamenti quando l'ho veduto, tante questi personaggi. Brani di Rocco Scatellare. Conoscenti di Rocco Scatellare. Qui è in mano il libro. Le vengono in mente tante cose a leggere il libro. Sì, mi vengono in mente, ma quando non sto con la testa. Queste pagine le ha fatte lei, queste. Questo, Sì. sì. Questa è la vita di Rocco, che ha fatto lei. Quando è nato e quando è Sì. morto. Non posso descrivere la festa che fece la popolazione, fece un corteo come lui, Rocco Scatellare, della macchina. Abbracciavano e lasciavano, benché i fiori della mia stanza erano tutte piene, come era sceso Cristo dal cielo. E sono fatti sì. Fatto lei. Sì. Da allora non ha più fatto niente, però. Perché era Rocco che la faceva lavorare, mi ha detto, non è? Sì, ma questo dopo morto l'ho Dopo fatto, morto, lo sì. so. Era Rocco quando mi faceva Pensavo si scrivere. divertiva, Ma però non è che sorrideva. era lui che me lo diceva. Era lui. No, non era lui. Solo che me lo diceva, mi deve fare questo, deve scrivere questo, io lo E lei facevo tutto quello scriveva. che voleva. Provi a leggere questo. Qua sta troppo. Zia Frangia, girati di qua. La cosa che non sente. Girati così, perché la luce la. Qua si vede bene. Nel 1923, il 19 aprile, la mattina del giovedì, ore 7, nacque il mio caro Rocco.